24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. And the Golden Globe goes to Kevin Spacey, House of Cards. Netflix. Gli utenti scelgono questo servizio perché costa meno dei canali premium. Possono accedere con un click all'immenso catalogo di serie TV e film di Netflix. L'unica verità che conoscete è quella che ricevete alla TV attualmente. C'è da noi un'intera generazione che non ha mai saputo niente che non fosse trasmesso alla TV. Alcuni italiani ritengono che il canone sia una tassa ingiusta. E in quanti guardano? E noi in quanti guardiamo la RAI? Il canone più basso, l'evasione più alta, gli ascolti migliori. RAI, il servizio pubblico leader in Europa. Viva la RAI, ti fa crescere se vai. Tutta la Champions League è un'esclusiva Mediaset Premium. Gli incontri non saranno visibili sulla pay TV satellitare. We are the champions. Mediaset, il primo pilastro, il più grosso, potrebbe finire in mani francesi. Il gruppo multimediale transalpino Vivendi, compagnia guidata dal finanziere Vincent Bolloré, che si appresta anche a diventare primo azionista di Telecom con l'8,3%. Stiamo per svegliarci in un mondo nuovo, il mondo dell'internet delle cose. Niente paura. Rivoluzione Netflix, l'azienda che ha conquistato il mercato americano con Netflix. Sbarca nel più ricco mercato televisivo europeo. Professor Daniele Doglio, nel mondo dei media sta cambiando tutto. A Cannes l'uomo più corteggiato è stato il CEO di Netflix. Perché secondo lei? Perché naturalmente in queste occasioni si va all'inseguimento dei soldi. Ora Netflix ha comunicato che intende produrre 20 serie televisive all'anno per i prossimi anni e è un grande acquirente di diritti cinematografici, quindi non stupisce che a Cannes Sid Rastin sia diventato un protagonista. Perché Netflix può cambiare completamente lo scenario televisivo anche in Europa? Perché introduce due variabili che fino adesso non erano mai andate insieme, e cioè una televisione a pagamento attraverso internet a bassissimo costo, 8-9 euro al mese, per un grosso pacchetto selezionato di titoli di generi limitati, TV, film, serie, film, cinema, televisione di tipo fictionale, certo non sono le news, non è lo sport, però un pacchetto di 50.000 titoli, capisce che siamo di fronte a una dimensione. È una grande offerta. Ecco, professor Doglio, ma negli Stati Uniti, esattamente, finora cosa è capitato con l'arrivo di Netflix? Beh, è capitato sostanzialmente che si è messo in movimento tutto il sistema. Netflix ha un tasso di crescita impressionante, nell'ultimo anno è cresciuto praticamente del 50%, insomma ormai ha superato in tromba i 60 milioni di abbonati, ha doppiato quello che era il suo principale concorrente, almeno in linea teorica, HBO, che si è fermato a 30 milioni di abbonati, Netflix ne ha 60, capisce che parliamo di dimensioni veramente impressionanti. E tutto questo ha fatto capire ai grandi operatori, sia ai network che alle reti cavo, che a tutti quanti, che devono cambiare registro. Esiste un altro anche modello di business. Ecco. Esattamente. Allora, professor Doglio, ma non si comprano più pacchetti ma singoli prodotti, quindi? No, non si tratta di pacchetti, si tratta di abbonamenti in streaming ai numeri che ho detto prima. Bene. Quindi lei accede a un pacchetto di 40, 50, 60 mila titoli che può decidere di vedere quando vuole, e questa è la chiave, questa è la vera novità, che li vede quando vuole lei, come vuole lei. È come se li mettesse in cantina, le tira fuori, stappa la bottiglia quando vuole. Ma la può bere anche tutta l'annata se vuole. Naturalmente. Ma la battaglia sarà quindi sempre di più sui contenuti, i loro produttori e le piattaforme di distribuzione. Direi che sicuramente la battaglia sarà sui contenuti, perché le piattaforme di distribuzione tendenzialmente andranno a unificarsi. Si integrano verticalmente piano piano. Ma soprattutto è il problema che la neutralità della rete, quindi internet alla stessa velocità per tutti, non potrà durare a lungo. Per il momento è giusto che sia così, ma è chiaro che a un certo punto, quando il peso, diciamo, dell'offerta diventerà preponderante, dovranno creare degli abbonamenti differenziati a prezzo differenziato, ma sarà quella. Come è capitato con le televisioni private, prima libere poi private, come è capitato per la Pay, è lo stesso meccanismo che si trasforma dal punto di vista della piattaforma, ma nella sostanza poi il meccanismo è sempre quello, prima gratis poi a pagamento, sbaglio? Sì, però qui c'è sicuramente, c'è una novità sostanziale, sì, che ci stiamo uscendo dalla logica della televisione per appuntamenti. E naturalmente, è il palinsesto non detta più l'ascolto, naturalmente cambia tutto. Ecco, in Europa i servizi pubblici fanno molta fatica a seguire questa evoluzione tecnologica e di appuntamenti con i contenuti. Perché? Sono rimaste grandi televisioni generaliste, quindi continuano a rivolgersi a un pubblico con il loro differenziato, con una molteplicità di generi, e non riescono più a servire segmenti di pubblico sempre più settoriale, sempre più specializzato, sempre più interessato solo ad alcuni tipi di generi. Senta, questa è certamente la prima causa. La BBC, che è il servizio pubblico europeo più avanzato, più importante, più qualificato, nel suo percorso di riforma a che punto è? Momento è a un punto molto importante, perché ci sono state le elezioni, si sa chi è il nuovo interlocutore politico, che è il vecchio, certo, governo, ma senza i liberal democratici, che di solito occupavano la poltrona di ministro della cultura, certo, dell'intrattenimento e dello sport, e quindi erano il loro interlocutore. Sì. Adesso hanno un governo conservatore, siccome è un governo conservatore che non ha bisogno di nazionalisti o di integralisti di, certo, altro genere, può darsi che le cose non vadano così male, ma BBC ha capito una cosa, che la sua natura di servizio pubblico è a rischio, potrebbe essere resa obsoleta, e quindi sta cercando di proporsi in un modo che tenga conto di come le cose stanno cambiando. È una nuova BBC, certo, che sta su internet, quella che Lord Hall vuole lanciare. Certo. Non si sa se ce la fa, è interessante, certo, ma comunque loro ha capito che domanda deve cambiare. Ecco, in Italia la RAI, che tra un anno dovrà rinnovare la concessione in esclusiva del canone, sembra in mezzo a un guado difficilissimo da attraversare, così? È così, perché la situazione della RAI è una situazione che va a cercare risposte a domande vecchie, certo, mentre non si pone la domanda di fondo: a cosa serve un servizio pubblico radiotelevisivo oggi in Italia e nel mondo? Finché non si ha il coraggio di porsi questa domanda, non si può cominciare a cercare delle soluzioni, che poi magari non si trovano. Certo, però almeno bisogna farsi la domanda giusta. Ecco, la riforma proposta da Renzi dà strumenti per rendere più veloce questo passaggio, oppure no, resta nell'ambiguità, dicendo canone sì, canone no, canone forse, insomma. Direi che la domanda di nuovo non se l'è posta, mette in campo dei meccanismi di accelerazione di tipo gestionale, sì, che potrebbero essere, ma non editoriale, certo, siamo sempre lì, non c'è la risposta alla domanda di fondo. Ecco, ma intanto sul piano privato, cioè delle aziende private, all'orizzonte ci sono ipotesi di concentrazione tra Sky e Mediaset Premium, almeno, e in qualche modo Vivendi, che ha un ruolo da outsider, ma che può essere un player globale per l'Italia. Vivendi, è così? Beh, può essere un player importante, di cui tutti stanno aspettando la uscita, perché è seduto su quella che si chiama una montagna di liquidità, certo, assomma circa 11 miliardi di euro incassati dalle vendite di tutte le partecipazioni nelle attività di telecomunicazione e altre cose. Ecco, ma quindi un soggetto del genere che è molto sta per attivo, entrare in campo. Potrebbe entrare anche in Italia. Beh, no, oramai è entrato, perché avendo l'8% di Telecom è entrato. Sì, vabbè, però tenga conto che quell'8% di Telecom sconta il fatto che nel frattempo ha venduto più importante operatore di telefonia cellulare francese, Sefer, ha venduto GTV in Brasile. Sì, ma parlando dell'Italia, delle telecomunicazioni, capito? Quindi che ci, appunto, rientri è un po' bizzarro. Forse ci rientra per fare dell'altro. Ecco. Ha i mezzi per comprarsi tutto, esatto, compreso tutta Sky, tutta Mediaset, appunto, Premium, appunto, e via dicendo. Che lo voglia fare davvero, per il momento si vedrà. Ma sotto il profilo delle risorse per la TV, che vive di pubblicità, il futuro come si sta prospettando? Non è roseo, perché non è che la pubblicità sparirà, per carità. Certo che no, si distribuirà in altro modo. Andrà distribuirsi in altri media, esatto, dove avrà caratteristiche molto diverse. I dati delle ultime ricerche dicono che lo spostamento è forte dalla televisione, direttamente dai budget per la televisione, verso i budget di internet, quest'anno negli Stati Uniti. Ma la quantità qual è il percentuale? Quello che le sto dicendo, sì. Quest'anno la pubblicità su internet supererà i 50 miliardi di dollari a fronte di 75 miliardi che stanno sulle televisioni, quelle via etere, quelle via cavo, eccetera, eccetera. Comincia a essere il 75% del budget totale delle televisioni. Quindi è tanto. Fino a qualche anno fa era il 10, il 5, certo. Ha capito? Quindi la 10 velocità 75. Di crescita. La velocità di crescita è molto importante, alta. Le sottrae, beh sì, si fa finta di dire che non sottrae ma aggiunge, in realtà sottrae. Certo, basta vedere la somma totale. Che hanno sentito gli esperti, che hanno sentito non solo gli esperti ma i manager della pubblicità, certo. Tutti dicono che non c'è dubbio che i loro budget si andranno a spostare lì. Quindi il futuro della televisione generalista è sempre meno roseo. Quella che si finanzia con la pubblicità è messa male, il canone finché trova una giustificazione, se no, insomma, per carità, la televisione continuerà a sopravvivere per molti anni, ma sì. Ripeto, è una televisione diversa, noi continuiamo a pensare che sia televisione solo perché si vede su video. No, ma si vede su tanti, da tante parti. Lei è un esperto, sa benissimo che la pianificazione pubblicitaria è fatta sui palinsesti, sulla capacità di accalappiare occhi e attenzioni. E oggi cambierà anche dal punto di vista degli inserzionisti la logica da utilizzare. Assolutamente, andranno a cercare altre soluzioni, altre formule, stanno testando, sperimentando, inventando. È un grande calderone. Che è in grande movimento in tutto il mondo. In tutto il mondo. Sì, ecco, le faccio un'ultima domanda, professor Doglio. Quella che lei chiama nei suoi scritti la post-televisione, però, le ho accennato prima, sembra ripercorrere un po' la stessa strada che è stata intrapresa prima da Berlusconi, poi da Sky per parlare dell'Italia sulla Pay, cioè prima si accede ai grandi magazzini antichi in qualche modo, cioè ai grandi depositi di prodotto per piattaforme nuove quasi gratuite e poi piano piano si comincia a produrre. E in fondo questa post-televisione, da quanto vedo su quello che acquistano, è un po', si muove un po' in questa logica. Allora, qui ha certamente ragione su una cosa, è un dubbio che io, che sono convinto che la post-televisione è veramente post, nel senso che abbiamo detto prima, per le modalità di fruizione che cambiano, certo. C'è però un elemento un po' inquietante, sono notizie di questi giorni che i due grandi operatori, Netflix da una parte e Hulu dall'altra, che è un suo potenziale concorrente negli Stati Uniti, hanno investito tutti e due una cifra superiore ai 200 milioni di dollari per comprare i diritti di due grandi serie televisive degli anni 80. Ma allora non ho torto. Seinfeld e Friends. E allora il dubbio che la nuova televisione sia la televisione degli anni 80, ridotta dal punto di vista dei generi alla serialità media o lunga, un po' viene. Va bene, allora vedremo, cambia tutto perché non cambi niente. Ecco Mario, mi senti? Buongiorno. Ciao Mario, buongiorno, senti, questa buongiorno. Concentrazione di operatori, naturalmente più Netflix, cambia lo scenario completamente, però vediamo che dal punto di vista poi dei prodotti è ancora tutto in discussione. Sì, assolutamente. Il 2015 sarà un anno molto importante, secondo tutti gli analisti, poi basta guardare in fondo il mercato che cosa sta succedendo. Appunto. Sarà un anno di grandi concentrazioni, stanno convergendo società di telecomunicazioni e con le società dei contenuti, sì. Con le società dei contenuti. È come insomma un paradigma dell'autostrada e della macchina. Fai l'autostrada ma devi avere anche la macchina da far camminare su quella strada. Vabbè, che insomma, quindi diciamo seguiremo queste. Sì, per lo scenario italiano sono d'accordo con Doglio e anche con le osservazioni che fai sempre tu, cioè sarà una rivoluzione sicuramente. Certamente, vedremo, anche perché il 2016 è lì e il rinnovo della concessione non è per niente automatico. Grazie. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 per gli SMS. Ecco, Michele Bertini, 34 anni, regista e autore della web series L'amore al tempo del precariato. Questa web series, Michele, quanto è realmente ispirata alla tua vita? Abbastanza, nel senso, questa web series è nata con la collaborazione di due ragazze, sono Eva Milella e Olga Nerina, che sono due ragazze che hanno due figli. E siete tutti più o meno coetanei, no? Tutti coetanei. Io mi sono ispirato a me stesso nel ruolo del protagonista, di Michele, e loro si sono ispirate a loro stesse nel ruolo delle mamme che hanno avuto questi due figli. È stato sicuramente un collage di esperienze, di racconti, di amici. E poi mi ha ispirato anche un film che si chiama Molto Incinta, in italiano Knocked Up, di Jude Apatow, che parla di una gravidanza indesiderata, mm-hmm. da cui poi nasce una storia d'amore. Giulia, Michele ed Elisa sono i protagonisti dell'amore al tempo del precariato. Ma che cosa li contraddistingue, questi personaggi? Beh, li contraddistingue un'instabilità lavorativa, che è un'equazione di instabilità sentimentale, che è un po' un dogma di questo periodo. Beh, sono sicuramente personaggi che hanno un atteggiamento ironico rispetto alla vita, vivono i loro sentimenti in maniera seria, però comunque sono molto autoironici. Ma il precariato, secondo te, aiuta ad andare in fondo alle cose oppure si trasforma in un alibi di superficialità? Questo è la solita questione che... Tu non te lo chiedi mai? No, io mi do un sacco da fare, non voglio essere precario per niente. Penso che può in determinate questioni essere una giustificazione. Come nel caso di Michele? Sì, lui è sicuramente un colpevole, è uno che utilizza i limiti della società attuale a suo piacimento. Tendenzialmente penso che non debba essere un alibi, bisogna darsi da fare, come abbiamo fatto noi con questo teaser. Tu ti senti più un precario o un libero professionista? Io mi sento un libero professionista. Tu hai partecipato, con appunto l'amore al tempo del precariato, ad un concorso che si chiama La Bottega delle Web Series. Michele, ma di che cosa si tratta? È un concorso indetto dal Premio Salinas insieme alla Rai, a Rai Fiction. Siamo stati selezionati come finalisti e poi abbiamo fatto un tutoraggio con i tutor Rai e Salinas, che ci ha portato, dopo 6 mesi di tutoraggio, a non vincere, a diventare secondi, però a quel punto noi, da bravi combattenti, abbiamo deciso di produrci un teaser della nostra storia. Ha funzionato? La Rai, poi, che erano i nostri padrini, è piaciuto tanto, ce l'hanno messo sul loro portale, si chiama rai.rai.it. Nascerà una serie? Sì. Cioè, giriamo a ottobre, io ne sono convinto. Michele, ma per il web come cambia la scrittura? Beh, cambia molto, nel senso, è abbastanza un far west, nel senso che non ci sono generi, non ci sono lunghezze codificate, non è un genere codificato la web serie. È libertà pura, e ci sono gli youtubers, ci stanno quelli come noi che hanno più un background legato al cinema. Incomincia ad esserci, secondo te, sulla base anche della tua esperienza, un mercato per idee seriali di racconto per il web come la vostra? In Italia sì, insomma, piattaforme, quelle che hanno aperto quella della Rai, è un'esperienza positiva e poi spero che ce ne saranno altre. Per ora ci sta il prodotto web che diventa virale e basta. Bisogna pure anche capire il gusto del pubblico, che è un bel casino anche quello. Le pillole che hanno funzionato tanto, no? Cioè, la struttura verticale è quella che funziona più di tutti ora come ora. Quindi la massima semplificazione funziona sul web? Beh, l'attenzione del pubblico è abbastanza bassa, uno a 2-3 minuti, poi io cambio, ma pure meno. Grazie Michele, in bocca al lupo. Oh, grazie a te. Ecco, dopo questa intervista di Sara Tardelli, a proposito di televisione e di web, sta prendendo piede in Italia anche questo genere di racconto diverso. Gloria Giorgiani, vincitrice di 7 premi a Roma Web Festival con Under. Ecco, buongiorno, buongiorno. Giorgiani. Ecco, che cos'è Under? 10 puntate, no? Se ricordo bene. Sì, 10 puntate da 5 minuti, è una storia orizzontale, quindi molto narrativa, che abbiamo prodotto insieme a Rizzoli e un distributore digitale che è Trilud, facendolo uscire in contemporanea al libro prodotto da Rizzoli, quindi è ispirato a un romanzo. Ecco, ma è un romanzo che parla di cosa in due parole? È uno Street Urban, che parla di un'Italia del 2050 in cui un gruppo prende il potere e quindi sottomette tutti gli altri. Ci sono dei ragazzi ribelli che vengono rinchiusi in un bunker dal quale cercano di organizzare una resistenza. Ecco, dottor Giorgiani, quali sono le caratteristiche, se si possono già identificare, della produzione di fiction per il web? Guardi, intanto io penso che la cosa principale che introduce nel mercato nostro italiano la produzione di web series di contenuti di questo genere è fare uno sforzo sia sul linguaggio che sulla produzione, cioè ecco, ma costringe a fare dei ragionamenti su entrambi i versanti, certo. Ecco, ma comincia a esserci una committenza? No, la committenza è molto diversa. Nel caso di Under, per esempio, il nostro committente è comunque coproduttore, quindi non ha coperto il budget complessivo, certo, dell'operazione, è stato un editore puro come Rizzoli, però io penso che questo sia un passaggio interessante, che un editore cominci a diventare anche coproduttore di un contenuto seriale sui video. Cioè, significa avere l'idea di un'evoluzione del modo di proporsi sul mercato, su varie piattaforme. Ecco, ma come si caratterizzano le web series? Cioè esistono dei format, delle lunghezze, oppure siamo nella ricerca pura? No, io sono contraria al pensare che ci sia una libertà molto simile all'anarchia. Penso che invece sia importante in questo momento introdurre contenuti di qualità e quindi andare a cercare delle storie e soprattutto fare un ragionamento, ripeto, sul linguaggio. Questo sulla storia è d'accordo, ma sulle lunghezze? Sulle lunghezze c'è sicuramente un'attenzione breve dei fruitori, diciamo, occasionali, però in previsione di quello che sta accadendo nel mercato, che è quello che di cui si discuteva prima, c'è anche la possibilità di fruire un prodotto anche scegliendo dei tempi e scegliendo delle modalità. Quindi io penso che 7 minuti possa essere un punto di partenza. Under ha avuto una permanenza degli utenti, che sono stati anche molti, di tutta l'intera durata delle puntate, che era intorno ai 6 minuti. Ecco, i costi, dottoressa Giorgiani? I costi sono molto bassi in questo momento. Le faccio un esempio: su questo tipo di operazione il valore di questa operazione è stata di circa 50-60 mila euro. Per le 10 puntate? Complessive, che sono stati anche poi montati in un film che verrà, d'accordo, ma insomma quindi 5.000 euro a puntata, grosso più o meno modo. Più o meno, sì. Quindi il suo prossimo progetto, dottoressa Giorgiani? Guardi, approfitto di questa occasione per parlarle di questo progetto che invece vede una committenza Rai e che però è un progetto multipiattaforme in cui credo molto. Sono 10 racconti, 10 film da 10 minuti tratti dai racconti di Camilleri, che saranno trasmessi su Rai 1, quindi sulla generalista, andranno anche sul web. Secondo me questa è una fase intermedia del mercato in cui si comincia a ragionare su prodotti che multipiattaforma, che abbiano la caratteristica di essere multipiattaforma. Bene, auguri per il suo lavoro. Grazie. Allora 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. X24. Vivevamo segregati a quel tempo. Giacevo così mi parve e cadeva la neve. Curiosità e prudenza si univano ed indagavo. Pietrangelo, da dove ci racconti la tua poesia oggi? Da Busseto, dove ho capito il perché di due tipi di temporale. Perché c'è quello che apre l'estate e quello che lo chiude. Così come due sono i passaggi della luce, attraverso la notte e poi per tramite di musica. Ho vissuto appunto la notte di Busseto e siccome le piazze, gli alberi e le case sanno fare cornice di bellezza davanti alla statua di Giuseppe Verdi, che è messo seduto ma pronto a prendere vita allo scoccare di ogni mezzanotte, io ho cercato di decifrare i due passaggi di luce e sarà di nuovo estate e scoppierà appunto come un temporale e appariranno quindi le baie dell'incostanza e le valli dell'indifferenza per come canta Franco Battiato in questa canzone. E in effetti stanotte ha preso vita la statua di Giuseppe Verdi, si è alzato dalla sua sedia e si è incamminato verso i giardini dell'anima, dove il nuovo temporale porta la quiete di tenui colori. Ed è stato come incontrare l'autunno stanotte, come il dolce malessere dopo un addio, perché sono poche le cose che restano alla fine di un giorno, ma tutto prende dimora nella notte. Dai tuoi giardini sospesi nell'anima verrà un nuovo temporale. Mario, ecco. Anche tu sei fuori, oggi sono solo. Mi sento male, mi sembra di essere in Sardegna, che meraviglia. Fa bello. Sì, senti, bello. Sì. Allora, che cosa bolle nella tua pentola della Sardegna? Andiamo a sentire. Che cosa hanno in testa? Hanno in testa il fatto che si va esaurendo. Versailles, Suez, 1973, guerra del Golfo, guerra del Golfo 2. Questo è uno scontro mortale. Così quando vi sveglierete, finalmente, loro vi avranno prosciugati e voi avrete sperperato la più grossa risorsa naturale della Terra. Allora, questo era un pezzo di un film straordinario siriano. Siriana, sì, nostri, certo. Sì, molti dei nostri ascoltatori lo conoscono. È interessante perché stamattina ho letto una cosa che tu pensi di poter leggere solo nei film. E in realtà poi apri il Financial Times e scopri che il ministro del petrolio dell'Arabia Saudita, Ali Al-Naimi, immagina un futuro oil free per l'Arabia Saudita, cioè entro la metà di questo secolo il più grande produttore di petrolio del mondo pensa che non ce ne sia più. Esatto, pensa che non sarà più una potenza petrolifera, ma un paese che investe nel solare e in energie alternative. Tu capisci che questa è una cosa rivoluzionaria. Per ora, insomma, i sauditi sono impegnati in quello che noi abbiamo battezzato come il gioco dell'omino nel pozzo, quindi certo, Tengono il prezzo del petrolio ai minimi storici. Quanto durerà? Non lo sappiamo, dipende da quanto crescerà. Comunque questo certo è una bella notizia. È molto interessante. E qualcuno dice anche un'altra cosa, che in fondo era l'incipit di questa bolla, e cioè dipende da quanto dura il petrolio. Comunque è chiaro che ci sono dei rivolgimenti molto in grandi in ogni settore, sì. Sì, nella geopolitica, assolutamente. Grazie Mario. Salamini. Arriva il 24 maggio e sono 100 anni dalla Grande Guerra. L'Italia, però, ancora una volta è stretta nella morsa tra la retorica istituzionale e il sarcasmo. Quella Grande Guerra fu l'irruzione della modernità in una realtà rurale. Nella mattanza, poi, si fece tutto un popolo che era quello atteso dal Risorgimento. Ricordate, fare gli italiani, ebbene fu fatto. E la prima narrazione corale fu quella dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Solo che l'unica vera ideologia a nostra disposizione è quella di italiani, brava gente. Da una parte dunque c'è il sarcasmo, la grande guerra di Monicelli, ascoltate. Fegato, dicono. Quelli conoscono soltanto fegato alla veneziana con cipolla. E presto mangeremo anche noi quello. Dunque? No, dico, cosa c'entra questo? Prego. Aggiù, stai buono. E allora, senti un po', visto che parli così, mi te disi proprio un bel niente. Hai capito? Faccia de merda! Ecco, quindi da un lato il sarcasmo, dall'altro la retorica, però per sfuggire a tutto ciò io proporrei un antidoto e rendere omaggio alla Grande Guerra con Peppone e Don Camillo. E sempre viva il 24 maggio. Direte che i vostri padri hanno difeso la patria dal barbaro invasore che minacciava i sacri confini, e che noi del 99 che abbiamo combattuto sul Monte Grappa, sulle pietraie del Carso, Pascal. E sul Piave, Pascal Vicedomini, in diretta dal 68esimo Festival di Cannes. Ciao. Buongiorno. Che cosa è capitato? La novità della giornata qual è? Ma ieri sera grandissima festa all'Hotel du Cap per l'Anfar, raccolti oltre 33 milioni di dollari. Gli americani lamentavano appunto che il dollaro è salito rispetto all'euro e dunque non hanno incassato gli stessi soldi dell'anno scorso. 33 milioni di dollari la festa? Sì, e 12 milioni battuto all'asta un pezzo, un capolavoro, un'installazione di Jeff Koons. E la bella notizia è che un weekend a casa di Bocelli è stato battuto all'asta per 2 milioni di euro. Dunque Andrea Bocelli ha portato il proprio contributo a questo importante evento di solidarietà a favore per la lotta all'AIDS con una canzone, Con te partirò, e ben 2 milioni di euro che un signore ha voluto dare. Senti Pascal, per usare una metafora sportiva, Garrone e Sorrentino sono coppie Bartali del cinema italiano? Dopo questo festival? Però c'è un terzo incomodo che si chiama Nanni Moretti, comunque non c'è gara tra Garrone e Sorrentino in questa occasione. Nel senso? Sorrentino, diciamo, si avvia ad avere delle soddisfazioni. Ieri, parlando anche con un giurato sul red carpet, si avvertiva che Sorrentino è favorito. D'altronde Sorrentino ieri ha festeggiato proprio all'Anfar con tutto un gruppo di amici, insomma, con molta serenità. Cioè, quindi tu pensi che cresca una speranza di un premio per Sorrentino? Assolutamente sì, sono proprio convinto contro ogni scaramanzia. E che cosa hai visto di interessante dal punto di vista cinematografico ieri? Ma ieri non c'era moltissimo perché c'era una pausa molto interessante. No, ma allora ti chiedo una cosa io. Nella sezione Certain Regard con Minervini c'è un altro autore italiano, se ne parla oppure? Assolutamente se ne parla. Questo italiano che vive in America da tanti anni è un documentarista, un'intelligenza da recuperare, perché veramente ha fatto un lavoro eccezionale andando ad analizzare quella che è la realtà povera dei suburbs della Louisiana e facendo vedere un po' appunto l'altra faccia dell'America opulenta. Domani sera è molto atteso invece un film che potrebbe regalare la palma di miglior attore a Michael Fassbender, Macbeth, con Marion Cotillard nel ruolo di Lady Macbeth. Bene. E oggi per chiudere c'è molto atteso il cartone animato dell'anno, Il Piccolo Principe, che uscirà a Natale nei cinema, con un cast di attori internazionali italiani straordinari a doppiare. Tra gli internazionali Jeff Bridges e Benicio del Toro, tra gli italiani che arriveranno oggi sulla Croisette, Piff, Alessandro Siani e Stefano Accorsi. Dunque si uniranno insieme i grandi star di tutto il mondo con gli italiani per appunto all'insegna dei cartoni animati. Va bene, la festa sento che ha lasciato tracce nella tua voce, ti auguro di dormire di nuovo. E intanto noi 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS e pubblicità. Mix 24. Mario, ancora una bolla. Ho messo un po' di ritmo, Giovanni, perché se siete amanti del brivido e vi piace giocare in borsa, allora il mercato cinese di Shenzhen, secondo me, fa per voi. Allora è divertente, oddio, non lo so se è divertente, perché è preoccupante forse, perché ci sono titoli che aumentano in poco tempo del 500%, altri che in poche sedute si afflosciano come un polpo sulla spiaggia. E pensate, il gigante del solare, Energy, ha perso il 45% del valore che aveva accumulato in pochissime sedute. Però se volete rifarvi potete sempre investire nella Beijing Huafeng Technology, che è cresciuta solo 3.822 volte. In quanto tempo? Figuriamoci. In un anno? In pochissime sedute. Questi qua sviluppano player per film online, tu immaginatelo. C'è anche la Zhejiang Longseng Auto Parts, che dal nome capirete tutti fa componentistica per auto, che è balzata in alto del 1600%. Se voi non avete proprio paura, potete sempre investire nella Wanda Cinema Line, che è schizzata del 1047% da gennaio. Tutto cinema anche, mi sembra. Molto cinema. Bene. Sì, è per quello che mi preoccupa. come è ogni... cinema. Esatto, è cinema. Come ogni venerdì, naturalmente per noi è arrivato il momento della posta del cuore. Se avete voglia di sfogarvi, raccontarci le vostre storie, scrivete a mix24@radio24.it. Con un uomo sposato e con due figli. Non gli ho mai chiesto nulla, anche perché mi era sembrato il tipo di uomo che a casa sarebbe sempre tornato, e io lo rispettavo per questo. Poi ha cominciato a parlarmi della moglie e della crisi che vivono oramai da anni. Credevo fossero piccoli cedimenti dettati dal senso di colpa. Invece l'altra sera si è presentato serissimo a casa mia per dirmi che è innamorato di me e per me ha deciso di andare via di casa. Come a dire, e tu hai la colpa della fine della mia famiglia. Gli ho spiegato che non credo sia giusto addossarmi una simile responsabilità e che la scelta spetta a lui indipendentemente da me. Abbiamo discusso e poi fatto pace, ma poco prima di andarsene ha detto... Allora non faccio nulla, mi dici tu quando sei pronta. Come se si potesse essere pronti a mandare in malora la famiglia di un altro. Improvvisamente mi è sembrato così piccolo e squallido, incapace di prendersi le sue responsabilità, capace invece di lasciare la moglie, ma a patto che ci sia un'altra pronta a sostituirla. Forse è tutto più semplice? Non lo amo abbastanza? Pietrangelo. Lettera complicata e però semplice. Dunque, signora, Vossia deve capire che i desideri non possono determinare diritti e qualunque discussione su questo tema non potrà mai avere delle soluzioni soddisfacenti secondo norma. E quando poi si pone la domanda riguardo all'amore verso di lui, ecco, io vorrei dire che tutto quel gioco di luci attraverso questo episodio si sono trasformate in ombre, e tutta questa ombra non solo ha tolto lucore a quel che sembrava amore, ma ha ricondotto ogni cosa a una dimensione di sola tristezza. Ecco, io sono un po' d'accordo con Pietrangelo oggi, perché secondo me questo gioco ha delle regole troppo complicate per il premio che poi c'è in fondo. Troppo, troppo. Quindi, siccome qua secondo me parliamo più di sesso che di amore, e hai ragione a farti quella domanda, forse tutto più semplice, non lo amo abbastanza o non lo amo proprio, ho pensato che c'è una canzone che invece fa proprio, proprio al caso tuo. Sesso senza amore, sesso senza cuore, senza un batticuore, difficile. Rita Leili ci scrive che oggi è Santa Rita e ci dice: Minoli, faccia tutto un suo augurio in diretta, mi piacerebbe. Allora, tanti auguri a tutte le Rite. Oggi è l'anniversario della morte di Giorgio Almirante. Ecco, prima di sentire Marina Melone, ascoltiamo questo estratto breve di un faccia a faccia realizzato nell'87, poco tempo prima della morte di Almirante. Ecco, ma lei del suo passato rifiuta qualcosa oppure lei, come dire, c'è l'accettazione? La mia formula è non rinnegare, non restaurare. Una cosa che non farei di sicuro è usare violenza contro un avversario politico. Perché l'ha fatto? No, non l'ho fatto. Ma no, voglio dire una cosa che non farebbe di quelle che ha fatto. No, e non l'ho fatto, quindi io potrei ripetere tutto quello che ho fatto senza pensare. Ma quindi allora non c'è qualcosa che non rifarebbe? Non rifarei quello che potevo fare in regime fascista, obbligare altri a portare una certa divisa, negare la possibilità di critica. Ecco, Marina Milone, dopo il giornale radio racconterai la storia di Giorgio Almirante. Sì, Giovanni, raccontiamo tutta la vita e la parabola di Giorgio Almirante dall'inizio, dalla scelta di Salò, poi gli anni della contestazione studentesca, fino al tentativo di creare una destra nazionale. Tra le voci più importanti c'è Donna Assunta, la vedova Almirante, con i suoi ricordi, il suo piglio e i suoi aneddoti. Bene, allora dopo il giornale radio la vita di Giorgio Almirante, ma prima della pubblicità Fotoromanza di Gianna Nannini. Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu ti telefono, no, ti telefono, no. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti.